Da questa cella scrivo a te così. T'aspetto in tribunale venerdì. La mia condanna è certa, già lo so. Però con te negli occhi me ne andrò. Lo so, il coraggio non ti mancherà, ma accendi ai nostri cari il tuo lumino e lascia nostro figlio da un vicino e la sentenza lui non sentirà. Mia luce, mia colomba, amore mio, da questa cella già ti dico addio, però da sola tu non resterai. Dai miei compagni un po' d'aiuto avrai, ognuno dalla paga ti darà il massimo di solidarietà. Mio bene, mia colomba, vita mia, al piccolo risparmia l'agonia. Ma quando avrai 10 anni parlerai e tutto di suo padre gli dirai. E dai giurati invece dirò io che per fermare la rivoluzione dovrebbero ammazzare una nazione. Qualcuno ha già preso il posto mio. Da questa cella scrivo a te così. T'aspetto in tribunale venerdì. E quando sarà giunta la mia ora, io penserò per non aver paura al nostro primo bacio di mattina, distesi fra i papaveri in collina.